Incontri di Gianfranco Fabi. Punta l'alba del 15 giugno, comincia il fuoco, l'artiglieria, il terzo alpini è sulla via, Montenero a conquistar, a conquistar. Il terzo alpini è sulla via, Montenero a conquistar. Con queste note, forse tra le più famose della Prima Guerra Mondiale, iniziamo l'incontro di oggi. Buonasera ai nostri ascoltatori e buonasera al professor Mario Isnenghi. Buonasera a voi. Mario Isnenghi è forse il più noto interprete storico della Prima Guerra Mondiale. Abbiamo voluto entrare un po' nell'atmosfera di quegli anni. Cosa le ricorda Montenero, Monterosso, gli alpini? Qual è la prima impressione che le fa risentire questa canzone? Che andrebbe cantata molto più tetra, in un'altra maniera. Ci sono altre esecuzioni che penso siano più appropriate alla situazione e alle parole, ma insomma i cori fanno quello che vogliono. E poi le interpretano, forse guardano un po' all'attualità, guardano un po' e non riprendono quello che era il clima di quegli anni, un clima sicuramente più difficile, un clima sicuramente drammatico. Montenero è uno dei monti più difficili da conquistare, e però conquistato. Ci sono tutte e due le cose, quindi è chiaro che l'interpretazione può calcare di più sull'angoscia e la difficoltà, oppure sull'epica della vittoria raggiunta. Ecco, di questo parleremo, ma intanto vi dico due parole su Mario Isnenghi, professore emerito dell'Università di Venezia, presidente dell'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza, autore di molti libri, forse il più noto è Il mito della Grande Guerra del 1970, ma ne ha scritte anche sulla stessa Grande Guerra. L'ultimo libro è Ritorni di Fiamma, storie italiane, e anche di questo parleremo tra poco. Mario Isnenghi ha anche vinto il premio Masi per la civiltà veneta proprio recentemente, e nella motivazione si dice: avvicinato generazioni di italiani alla realtà della Grande Guerra, tragedia di cui il Triveneto è stato uno dei principali scenari, sfrondandola dai luoghi comuni, senza rinunciare a sottolinearne gli aspetti ideali, il coraggio e l'abnegazione dei combattenti. Ecco, diciamo che Mario Isnenghi nelle sue opere, anche se parla del mito, ha voluto sfatare il mito della Grande Guerra. Sì, ma tutte e due le cose. I miti sono veri finché sono sentiti come veri. Non c'è un'altra verità del mito. Quindi fare la filologia del mito dicendo tu non sei vero, io ti falsifico, lascia il tempo che trova, se poi milioni di persone sentimentalmente, a torto o ragione, credevano fosse vero. E così noi dall'alto del nostro pacifismo possiamo pensare che fossero matti a volere la guerra e a farla. Però la volevano in molti, certo, non tutti. Quindi la parte della demitizzazione fa parte dello spirito critico, è necessario, se tu fai storia devi agire con spirito critico, ma partire lancia in resta contro i miti altrui, dimenticandosi che ogni generazione ha o almeno dovrebbe avere i propri miti, non va bene. Ecco, un mito della Grande Guerra, proprio perché la viviamo forse con le categorie di oggi, vista con le categorie di allora, l'interpretazione che ne possiamo dare è certamente differente. Lo facciamo sempre, sempre il passato viene valutato e rivissuto ed eventualmente anche storpiato con le categorie dell'oggi. Se del passato non ce ne importa più niente, non ce ne occupiamo proprio. Quindi è chiaro che della Grande Guerra ci occupiamo ancora. Fa parte del gioco se anche storpiamo il suo modo di essere, deviandolo nel senso, per esempio, del nostro stupore di nuovi cittadini europei al vedere che i tedeschi e i francesi e tutti gli altri si sparavano addosso. Vabbè, diventiamo pure europei, quindi con i certo. Valori della cittadinanza di oggi, ma quelli avevano la cittadinanza di allora. E poi hanno dovuto farlo un'altra volta prima di capire che forse era meglio non farlo, perché c'è stata dopo la Prima Guerra Mondiale anche la Seconda Guerra Mondiale, che ha ripercorso un po', ovviamente con un scenario diverso, però i temi di fondo erano gli stessi, erano i temi del nazionalismo, erano i temi della crescita territoriale. Sì, applicati diversamente, e questo vale in particolare per noi italiani, perché molti degli italiani lo dicevano 15-18, leggevano quella guerra come guerra di liberazione, conclusione del risorgimento nazionale, liberazione Trento-Trieste. Non era del tutto vero neanche allora, tant'è vero che abbiamo occupato Bolzano. Certo. Ma nella seconda guerra il criterio della potenza che arraffa tutto quello che riesce ad arraffare è il criterio dominante, non c'è nessun bisogno di camuffare da libertà e da liberazione quello che è in realtà occupazione e conquista. Ecco, siamo nel centenario di questa grande guerra, della guerra mondiale, centenario che durerà per 4 anni. Come è visto questo centenario dai giornali, dai mezzi di comunicazione? Come una celebrazione, ma merita una celebrazione o come un ricordo di questo evento? C'è assolutamente di tutto, ma il primo passo di quasi tutti è, per carità, non celebriamo, non si celebra una guerra. Vabbè, superando subito e passando al secondo passo. Stiamo qui a occuparcene in tanti e ognuno in realtà ci mette la sua interpretazione, attacca al passato quel che serve al suo presente, di norma, visto che pochi fanno di professione lo storico e sentono delle esigenze e dei criteri di rispetto della documentazione dei fatti. Tutti gli altri, se se ne occupano, è perché vogliono affermare i valori della pace, per esempio, certo. Oppure vogliono fare storia sociale e non storia politica, vogliono fare storia dell'uomo qualunque e molto negli ultimi decenni della donna qualunque. Sono tutte occasioni a cui la Prima Guerra Mondiale si presta, si dimostra molto adatta, è vero, questo riconferma naturalmente le sue valenze. Si possono fare molti tipi di storia, certo, appiccicati alla Prima Guerra Mondiale. Ecco, secondo lei qual è il tema maggiormente dimenticato di come si parla adesso della Prima Guerra Mondiale? Quale aspetto viene messo, forse strumentalmente, in secondo piano? Se parliamo più specificamente della Prima Guerra Mondiale in Italia, la mia risposta parrà paradossale, ma non lo è tanto, è la vittoria. Ci vergogniamo di aver vinto. Assolutamente sì. È un oggetto storico anche questo, perché attraverso quali processi politici e mentali siamo arrivati a mettere tra parentesi il fatto che si tratta evidentemente della vittoria maggiore di, certo, tutta la storia d'Italia, certo, che non ne ha avute altre. E lei ha scritto, mi sembra, se si fa una guerra è meglio vincerla. Se si riesce, se si ha la forza, la volontà politica, le qualità morali per impedire che ci sia, evviva ed evviva la pace. Ma non fu così. Non fu così, infatti. 10 mesi di discussione tra il 14 e il 15 portano alla prevalenza degli interventisti sui neutralisti. Comunque sia avvenuto, così è avvenuto. E allora, beh, se uno è o un santo, quindi si muove su un piano eminentemente religioso, o un anarchico e si muove allora al di fuori e senza lo Stato, e allora se uno è questo può dire non mi importa dello Stato. Qualunque altro colore politico e qualunque altra posizione ha bisogno di un qualche Stato. E allora se uno Stato è impegnato in una guerra, cosa fai? Ti auguri che perda? Che perda. Solo perché sei contro la guerra come dimensione appunto politica. Mi sembra un po' paradossale. Ecco, indubbiamente. Quindi in un certo senso c'era all'inizio della guerra una maggioranza, un sentimento comune interventista in Italia. Comune no, perché gli interventisti erano diversi tra loro, uniti in un fronte, e come succede in un fronte, si vuole la stessa cosa, ma la si vuole per motivazioni diverse, o scopi diversi. Lo si vedrà bene nel 19, il senso della guerra era diverso e il senso della pace, certo, lo dimostra. Tanto che si parlò di vittoria mutilata. Questa è un'idea micidiale di D'Annunzio, che di parole se ne intendeva, ma non ha calcolato la valanga che metteva in moto. Infatti una valanga che poi ha portato anche a quello che ha portato. Le conseguenze della guerra forse sono state peggiori della guerra stessa. Incontri. Thank you. La canzone del Piave, un motivo tra i più noti che ci ricordano la Grande Guerra. Siamo qui con Mario Snenghi, professore, uno dei maggiori interpreti e maggiori studiosi della Grande Guerra, autore di libri come Il mito della Grande Guerra, appunto del 1970, l'ultimo, Ritorni di fiamma. Ne parleremo tra poco, però abbiamo visto nella prima parte un po' come viene ricordata, come viene, tra virgolette, celebrata questa Grande Guerra. Abbiamo parlato anche di come è stata giudicata alla fine questa vittoria, che D'Annunzio disse una vittoria mutilata, e Mario Snenghi diceva è in fondo questa un'esagerazione, o meglio, come diceva il professor Snenghi, un'espressione micidiale, perché toglie la gioia del raggiungimento dopo una grande fatica di qualche cosa che era inaudito e inatteso. In fondo, chi poteva pensare che la guerra sarebbe stata così lunga, faticosa e sanguinosa? Nessuno, né in Italia né fuori. E si è riuscito a portarla a buon fine. Adesso sospendiamo la valutazione critica della guerra in quanto guerra. Era cominciata, certo. La stavano facendo. La portano a buon fine nonostante la crisi tremenda dell'ottobre-novembre 1917, quando la guerra poteva finire in senso contrario. Certo. Che cosa è successo in quell'ultimo anno? Qualunque cosa sia accaduta, certo è che è l'Austria che cade e non la piccola Italia. Il grande impero asburgico viene fatto fuori dalla piccola Italia. Arriva D'Annunzio, dice di più, vabbè, insomma. Beh, qualche ragione l'aveva, Fiume italiana, per esempio. No, effettivamente i rappresentanti del governo italiano, Orlando e Sonnino, si lasciano mezzo imbrogliare, diciamo, nelle trattative di pace dagli alleati, che erano stati molto amici dell'Italia quando bisognava trascinarla in guerra dalla loro parte, ma sono molto meno amici perché passata la festa gabbata lo santo. Questo era vero, non è che avessero torto, certo, i nazionalisti nel pensare questo, solo che l'hanno rappresentata questa situazione, dicevo, in modo micidiale, per eccesso di zelo, senza tenere conto delle circostanze, dei rapporti di forza, delle contraddizioni interne al patto di Londra, per esempio. È difficile mettere insieme e pretendere l'applicazione piena del patto di Londra, vecchia diplomazia che non teneva conto delle nazioni, e i principi di Wilson, il presidente degli Stati Uniti, cioè l'autodeterminazione dei popoli. Per cui da una parte volevamo Bolzano, tedesca, dall'altra volevamo Fiume, italiana. Vabbè, o l'uno o l'altro. E qui però, siccome succede, vuol dire che la prevalenza della cultura nazionalista sta avvenendo e finirà per far da base anche al sormontare del fascismo. Ecco, quindi possiamo dire che il fascismo è stato il portato di come è stata interpretata la guerra, più che della guerra, di come è stata interpretata poi la conclusione della guerra, una vittoria che ha fatto riprendere lo spirito nazionalistico e che ha avuto attenzione poi... però teniamo conto che Mussolini, il capo del fascismo, era stato il direttore dell'Avanti, quotidiano del Partito Socialista Italiano, no. Quindi il suo interventismo tra il 14 e il 15 si dichiara di sinistra e anzi rivoluzionario. Non parte cioè nuova destra nazionalista. L'intreccio avviene nel primo dopoguerra ed è una miscela anch'essa micidiale. D'altra parte Mussolini lo dice apertamente, le parole, i programmi sono pezzi di carta, esiste, noi diremo, l'autonomia del politico, per cui in base alle forze reali che sono in campo, certo, il politico le assume, le fa proprio e le indirizza alla meta, cioè al potere. Certo, mentre la politica è qualcosa in evoluzione, in continua evoluzione, in cui ci può essere anche un ritorno. In questo, vediamo il suo libro, Ritorni di fiamma, si riferisce proprio a questo modo italiano, in fondo, di guardare pragmaticamente le cose e magari di rinunciare un po' alla coerenza per guardare più all'opportunità. Uno dei punti di partenza di Ritorni di fiamma come libro, come concetto e anche come espressione, che è stato subito il titolo, fin da principio, è stato proprio Mussolini fra il 43 e il 45, cioè la Repubblica Sociale Italiana. Il ritorno alla Repubblica è il ritorno alla socialità. Quanti accanto a Mussolini sperano come lui di ritornare ad essere quello che erano stati da giovani, cioè rivoluzionari e di sinistra? Si illudono, fingono, strumentalizzano, se la raccontano. fa parte dei Ritorni di Fiamma. Ritorni di Fiamma, appunto, un libro, diciamo, complesso, perché poi mette insieme un itinerario intellettuale, un itinerario artistico, parla delle opere teatrali, parla dei personaggi, anche alla scoperta di personaggi che hanno avuto una vita, appunto, pubblica un po' effimera, di cui non ci si ricorda. È stato interessante andare a scavare in questa realtà, in fondo nascosta, in fondo anche fatta di molte storie locali che hanno avuto un'espressione particolare. Professor Isnenghi. L'arbitrio dello storico consente di dichiarare che una situazione locale è però emblematica, che un personaggio piccolo in sé tuttavia significa qualche cosa oltre di sé. Bisogna vedere se chi scrive certe pagine risulta poi convincente per il lettore. Io me lo auguro, ma certo c'è in questo libro tutta una serie di storie di grandi e piccoli personaggi, tenendo conto come punto di partenza di questo, che se uno ha una vita media sui 70-80 anni, la traversata di un secolo, sia l'Ottocento prima o il Novecento poi, di fatto possiamo constatare oggi che lo ha messo di fronte a non meno di due o tre spartiacque di carattere generale, in cui l'individualità del singolo, che avrà in quel momento a seconda dei casi 20 anni, 40 anni, se sa quello che è, quindi il privato del singolo si deve intrecciare con queste rotture storiche, quindi privato e pubblico. Che cosa succede? Quali adeguamenti saranno necessari, quali trapassi, che cosa penserà di sé il singolo nel 22? Beh, c'era un bel passaggio storico. Ognuno era stato liberale, democratico, socialista, comunista, anarchico. Che cosa fa? Legge nel fascismo quello che c'è di destra o quello che c'è di sinistra? Il fascismo pretende di essere la rivoluzione, sì, però nazionale. Nazionale, però rivoluzione. Poi è ancora più complicato, ma insomma. Ecco, ogni singolo è chiamato dalle circostanze a vedere se stesso dentro un processo complessivo. Pensi al 43, di nuovo tutti gli italiani chiamati a vedere se stessi in un trapasso il 25 luglio, ma l'8 settembre di nuovo da che parte mi butto a sinistra, dicono, una frase scherzosa, eccetera, quasi a negare peraltro un'esistenza, perché peraltro anche il fascismo è stata una realtà partecipata, vissuta. Non, allora non ci si poteva non dire fascisti, volenti o nolenti, anche chi magari era critico, però comunque guardava in fondo con simpatia, in larga maggioranza, almeno fino a poco prima della guerra, questa realtà. Certo, ma si poteva essere fascisti o semplicemente per la cosiddetta, come la si chiamerà poi, tessera del pane, certo. Oppure sentendosi rivoluzionari compatibili con la nazione, oppure semplicemente anticomunisti che si servivano di una diga anticomunista. Non erano mica letture sbagliate, ma erano letture unilaterali. Attraversiamo questi decenni, arriviamo al 43, 44, 45, nuova necessità di leggere se stessi. E naturalmente qui c'entra anche l'età che ciascuno ha. È possibile ricominciare se si è più giovani, è più difficile. Io ho attraversato in questi capitoli di Ritorni di Fiamma le vite di anziani fascisti che erano partiti su tutt'altre posizioni politiche e devono decidere se restare fedeli a quale se stesso. Sono diverse storie. Cosa consiglierebbe a un giovane che adesso vuole capire un po' di più, oltre che leggere i suoi libri indubbiamente, che vuole capire un po' di più, ma proprio come atteggiamento mentale, la storia d'Italia, una storia complessa? Abbiamo parlato molto di storia nei 150 anni, quando abbiamo festeggiato i 150 anni dell'Unità d'Italia, però in fondo si fa sempre fatica a cercare un filo conduttore. Probabilmente un modo comunicativo e più immediato è vedere alcuni pochi film molto significativi che sono generalmente pertinenti al genere della commedia all'italiana e che hanno affrontato, appunto in chiave di commedia, ma di commedia seria e anche profonda, i principali nodi della nostra storia. Dove non arrivava la tragedia è arrivata la commedia. Pensiamo al film di Monicelli sulla Grande Guerra, oppure Tutti a casa e ad altri film. Ecco, ma adesso in questo 2014 è difficile la professione di storico. Ci sono giovani che stanno impegnandosi a diventare storici. C'è spazio per lo storico nella attualità nella società attuale? Poveri, ce ne sono fin troppi rispetto alla capacità di assorbimento dell'attuale università. È uno dei problemi che ho dovuto affrontare anche come professore, che aveva per compito anche quello di preparare i giovani. Certo. Naturalmente da tanti che venivano a fare semplicemente l'esame, lo facevano più o meno volonterosamente con vari risultati, c'erano quelli che avevano una vocazione di diventare studiosi e sicuri. Qualcheduno è entrato all'università, altri stanno lì sulle soglie e è difficile. Comunque fare lo storico non ci si annoia. È il mestiere più bello del mondo dopo che quello dell'insegnante. Grazie professor Wisnik. Allora, se volesse dare un ultimo consiglio a un giovane che vuole fare la professione dello storico, studiare. Beh, intanto deve studiare, certo, e poi forse procurarsi un altro mestiere per la pagnotta. Grazie professor Wisnik di essere stato con noi questa sera, grazie dei suoi consigli e grazie anche di questa lettura pur rapida che abbiamo fatto di questo centenario della Grande Guerra. Ricordo Mario Wisnik, professore emerito dell'Università di Venezia, autore di libri come Il mito della Grande Guerra e l'ultimo Ritorno di Fiamma, edito da Feltrinelli. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, vi ricordo che questo programma può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e per quanto resta, buona domenica.